tu, forse non te l'hanno detto, ma lo incontrerai per caso, busserà dentro te l'amore, sta chiamando e il tuo nome è stato scritto sulle pagine del vento, volerà verso te, raccoglierai l'amore tu, lo porterai da me, ti aspetto qui da solo e brucerà. Accenderai per me, che sono ancora al buio, e sarà la luce di una festa, il sole in testa, e mi riscalderai, e saprò tutto, e in quel momento accorgerò del cielo sopra noi, l'amore sta in silenzio e avrà gli occhi nel soffitto, quando pioverà sul tetto, tuonerà dentro te. Ritroverò l'amore tuo, lo porterò da te, inventerò una scusa, poi venderò le mani mie e comprerò per te i sogni e una speranza, e sarà per te il paradiso, il tuo sorriso sulla faccia, e no, avrai paura, e in quel momento ti accorgerai del cielo sopra noi, e sarà dissetterà, e non è detto che in quel momento mi guarderai, non serve fra di noi, l'amore sta arrivando e ci porterà lontano. Ora prendi la mia mano, fidati di me.